Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Avete avuto un'ottima idea a restare in nostra compagnia. Sono le 11.08. Abbiamo Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi un po' raffreddata in redazione e come sempre c'è il nostro sommario. Timidezza, limite o risorsa? Filo interdentale e colluttorio per una bocca a prova di igiene. La pasta è in tavola. E allora benvenuta timidezza. Immagino che a molti di voi, spesso anche a me lo confesso, direi tutti i giorni, possa capitare o sia capitato di avere una botta di timidezza. Le guance si arrossano, la voce si fa piccola, le mani tremano, insomma verrebbe voglia di essere altrove o di essere invisibili. E le situazioni che possono mandarci in crisi sono tante e diverse. Ad esempio parlare in pubblico o a volte proprio anche solo chiedere un'informazione, entrare in una stanza affollata dove si trovano già altre persone che sembra che si voltino quando noi entriamo nella stanza. Pensiamo ad una riunione di lavoro oppure ad una festa, o anche trovarci casualmente accanto ad una persona che ci piace molto. Insomma, noi timidi e i timidi si sentono spesso gli occhi puntati addosso. Ah, ma tu volevi brindare? No, volevo così. Ma sì, dai, volevi brindare. Cosa c'è di male ad ammetterlo? Ma niente, cioè, io faccio sempre la prima. Cioè, niente, mica è chiuso, io volevo brindare. E adesso dove vai? Resta qui, no? No, devo andare un attimo in bagno. Senti, Gaetano, questa storia della timidezza è, secondo me, è una cosa dietro la quale ti nascondi. Tu sei sempre troppo preoccupato di te stesso, di quello che fai, che dici. Sei convinto che gli occhi di tutto il mondo siano sempre su di te, a spiarti, a controllarti. E questo ti lega, ti impedisce di abbandonarti. Ma questa è presunzione, non è timidezza. Ma come puoi pensare che la gente non abbia nient'altro da fare che occuparsi di quello che fai tu? Ve la ricordate, uno splendido Massimo Troisi in Ricomincio da tre? E direi, a proposito di tre, proviamo a rispondere a queste tre domande in modo che raccogliamo le informazioni utili per poi parlarne insieme all'800 24 00 24. Quando vi assale la timidezza? In altre parole, quali sono le situazioni o le persone che vi mettono in crisi? Che faccia ha la vostra timidezza? Vampate, sudate, vi viene la tremarella, vi manca la parola? E ultima domanda, che fate? Subite o reagite? 800 24 00 24, precedenza assoluta ai timidi. Ditelo al centralino che oggi siete raccomandati da me e in fondo anche questa è una prova. Se riuscite a superarla avete già fatto un passo avanti. Vi ricordo se questi temi delle emozioni, ma temi in generale che riguardano la psicologia vi interessano, voglio segnalarvi una collana di libri proprio dedicati alla psicologia che saranno in edicola da domani, ogni giovedì con il Sole 24 Ore. Domani in edicola troverete teorie e scuole di pensiero e quindi io vi invito a non perdere questo appuntamento e noi mercoledì comunque vi informeremo sempre e tratteremo temi che riguardano i sentimenti, le emozioni, gli affetti, insomma ci occuperemo della parte, dell'altra parte di noi. Sappiamo che siamo psiche, insomma bene, ci occuperemo di psiche. 800 24 00 24, i messaggi, mi dimenticavo, importantissimi, 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso ci occupiamo della nostra bocca e abbiamo usato, facciamo finta di essere lì davanti al lavandino, ci siamo lavati i denti con lo spazzolino, li abbiamo spazzolati per bene, con il movimento che dall'alto va verso il basso, preciso, lo spazzolino giusto, non troppo duro, non troppo morbido, però ci sono altri due protagonisti della nostra igiene. Ne parliamo con il dottor Nicola Esposito, che è odontoiatra e segretario culturale nazionale dell'ANDI, che come sapete è l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Dottor Esposito, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radiotelespettatori. Senta dottore, io vorrei parlare con lei di colluttorio e di filo interdentale. Abbiamo lavato i denti con lo spazzolino e naturalmente il dentifricio. Che sequenza dobbiamo usare? Si usa subito dopo il colluttorio o si passa al filo interdentale? Dopo aver usato lo spazzolino adeguatamente, importante dire che deve essere almeno utilizzato per 2-3 minuti e non i 30 secondi abituali che ho utilizzato, dobbiamo usare il filo interdentale, che è un ottimo ausilio per eliminare tutti i residui di cibo che si sono interposti tra un dente e l'altro. E come ultimo passaggio il colluttorio, in modo tale da eliminare quei residui che si sono posati sulle gengive e sui nostri denti e rinfrescare la nostra bocca. Andiamo allora al filo interdentale. C'è quello normale e c'è quello cerato. Certo. In effetti i due tipi di filo interdentale servono a fare in modo tale di non traumatizzare le gengive nel momento in cui lo interponiamo tra i nostri denti. Sì. Il filo cerato certamente è molto più utile nel momento in cui i nostri denti sono molto stretti fra di loro e quindi il film di cera che c'è sul filo ci permette di interporlo, di passarlo tra un dente e l'altro senza creare quello strappo e allo stesso tempo non creare un colpo sulla gengiva che c'è tra un dente e l'altro. Quindi se i denti sono molto vicini è meglio quello cerato perché scivola di più. Scivola di più, ma non eliminiamo quella che è l'azione energica del filo nel momento in cui si interpone tra i denti e rimuove tutti i residui di cibo che si sono interposti tra i denti stessi. Si usa ad ogni lavaggio dei denti il filo interdentale? Beh, quindi tre volte al giorno? Sarebbe tanto se riuscissimo a convincere i cittadini italiani ad usare il filo tre volte al giorno. In realtà nella nostra pratica quotidiana il filo interdentale spesso non viene utilizzato, addirittura viene trascurato perché è un po' difficile da usare, non sempre si riesce a recuperarlo e quindi a farlo entrare tra i nostri denti. Usarlo sicuramente come ultimo momento di igiene alla sera prima di andare a letto è certamente consigliabile. Una domanda che arriva al 349-238-6666. L'idropulsore fa bene? Va bene? Va benissimo perché sostituisce egregiamente il filo interdentale e quindi questa doccia della bocca spruzzata acqua insieme al colluttorio a forte pressione ci permette di eliminare quello che si è interposto tra i nostri denti. Andiamo al colluttorio, dottore. Il colluttorio, esistono tre tipi di colluttori, il colluttorio da banco, quello dell'igiene quotidiana, il colluttorio alto disinfettante e il colluttorio antinfiammatorio analgesico. Il colluttorio da tutti i giorni come presidio insieme allo spazzolino e al filo, come dicevo, permette a fine serata o durante i pasti di eliminare quei residui di cibo e allo stesso tempo dare un alito fresco alla nostra bocca. Il colluttorio alto disinfettante va consigliato nel momento in cui abbiamo delle gengive infiammate o sanguinanti, ma sempre su indicazione del proprio dentista di fiducia. Il colluttorio antinfiammatorio analgesico sono dei colluttori che sempre il nostro dentista consiglia e prescrive e è un colluttorio a base di principi attivi antinfiammatori nei momenti in cui dobbiamo lenire un dolore o addirittura una gengiva che è gonfia e sanguinante. Quindi, dottore, per il colluttorio con delle indicazioni specifiche bisogna affidarsi ai consigli del nostro medico. Beh, non c'è dubbio, solo il dentista riesce a individuare quelli che sono i problemi che affliggono la nostra bocca e permetterci poi di dare delle indicazioni e dei consigli utili per eliminare tutti i problemi che ovviamente nella nostra bocca ci sono. Dottore Esposito, lei è timido, timidello? Non guardi, timido per nulla? Timido, ma in realtà non lo sono per nulla. Vede, e noi oggi parliamo invece, vogliamo capire se la timidezza è un limite o una risorsa. A lei piacciono le persone timide? Certamente, perché sono più facili da scoprire. Ah, bene. Allora, grazie dottor Esposito per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a lei e saluto tutti quanti i radiotelespettatori. Ci ha insegnato delle belle cose. Grazie, buona giornata a lei. Pronto soccorso. Voglio presentarvi gli ospiti con cui affronteremo la timidezza, cercheremo di valorizzare questa emozione, ma non so se posso definire l'emozione. Pensate che ci sono 20 definizioni di timidezza. Ne parliamo con il dottor Grimaldi, che è autore di A quale timidezza appartieni, Franco Angeli, nonché psicologo e specialista in psicoterapia. Buongiorno dottor Grimaldi, benvenuto. Buongiorno a lei. Ma in linea con noi abbiamo un super amico di Essere Benessere, il dottor Francesco Aquila, psicologo e specialista in psicoterapia. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma ribentornato. Lei tra l'altro ha fatto la prefazione, ha scritto la prefazione di A quale timidezza appartieni. Sì, esatto. Quindi vi conoscete bene. Giocate certo. In casa, siete anche amici? Sì, sicuramente. Chi dei due è timido? Ma entrambi, ma forse l'autore un po' di più di me. Dottor Grimaldi, si svegli. Sì. Ci racconti, lei è timido? Sicuramente sono stata una persona abbastanza timida e adesso diciamo che è un po' meglio sicuramente, quindi è un argomento che conosco abbastanza bene. Senta, ma è vero che ci sono tantissime definizioni di timidezza e questo si capisce anche dal titolo del suo libro, A quale timidezza appartiene, vuol dire che ce ne sono diverse. Sì, senz'altro. Diciamo che la timidezza è stata intesa e definita in diversi modi, ad esempio come tratto, aspetto del carattere o della personalità, oppure, come diceva lei, un'emozione sociale, come un modo di essere, come un'inibizione comportamentale. Intanto è da chiarire che la timidezza non rappresenta assolutamente una patologia, cioè una malattia, ma la timidezza può essere considerata come una forma particolare di disagio che si avverte quando ci si trova a confrontarsi con tutta una serie di situazioni sociali in cui si è sottoposti allo sguardo e alla valutazione degli altri. Sì, ci sentiamo spesso gli occhi addosso. Insomma, io penso che la timidezza, non so se il dottor Aquila è d'accordo, sia come una sorta di diaframma che ci separa un po' dagli altri. E come un diaframma ci separa, ma anche ci unisce. E certo, bisogna vedere il lato buono, no? Infatti, se consideriamo i vantaggi che hanno i timidi nella vita, sono numerosi, anche se non subito se ne rendono conto. Poi bisognerebbe imparare a farlo diventare come una tendina, qualcosa che si può aprire e chiudere a seconda delle circostanze. Ecco, questo mi piace, più che come un diaframma, come una tendina. Intanto invito i nostri amici da casa a chiamarci. Ho detto che precedenza assoluta ai timidi. Ditelo al centralino, 800 24 00 24. Quali sono le situazioni che vi mettono in imbarazzo? E potete scriverci al 349 238 6666, come ad esempio ci scrive Marco, che dice: la timidezza è un limite, a 40 anni avvampo ancora, se costretta a rivolgere la parola a uno sconosciuto, soprattutto se donna. Ma a Marco dico che sa che noi donne abbiamo un po', molte di noi hanno un po' un debole per gli uomini timidi, no? Perché ispirano un senso di materno. Dottor Aquilar, che dice? Gli uomini timidi in fondo, alcuni ci marciano, fanno finta di essere timidi, noi ci cadiamo tutte le volte. Alcuni fanno finta di essere timidi perché è una porta che apre il cuore delle donne, suscitando quella tendenza all'accudimento che nelle donne è leggermente più forte che negli uomini. Tuttavia moltissimi sono timidi in maniera situazionale. Noi possiamo avere delle situazioni nelle quali le persone si sentono assolutamente sicure di sé e tranquillissime, e altre situazioni apparentemente innocue, nelle quali invece scatta una terribile paura del giudizio e una terribile paura di essere inadeguati rispetto a quel tipo di situazione. Ecco perché la timidezza è spesso collegata a quello che si sta facendo. Tra l'altro, il dottor Grimaldi scrive nel suo libro che esiste il timido introverso e il timido estroverso. Dottor Grimaldi, sono due tipi di timidi diversi o uno è riuscito a superare la timidezza e l'altro ancora non ce l'ha fatta? Ma diciamo che i timidi introversi sono un po' quelli che sono molto preoccupati di mostrarsi incapaci, di non sapere come comportarsi nelle varie situazioni, sono preoccupati del loro fallimento nel partecipare in modo appropriato agli incontri sociali, quindi sono molto angosciato dai loro comportamenti che sono abbastanza maldestri, quindi sono quelli facilmente individuabili, che subito si percepiscono, si individuano in alcuni contesti. I timidi estroversi invece sono quelle persone che in un certo modo sanno come piacere agli altri, sanno utilizzare appunto queste risorse e quindi sanno come farsi accettare dagli altri e possono anche avere dei successi, nonostante logicamente questo richiede uno sforzo. Ci scrivono tanti ascoltatori, voglio leggervi il messaggio di Franco da Como. Ho 38 anni, da piccolo ero tanto timido, ma solo con ragazzi e ragazze di 10-15 anni in più da 10-15 anni in più di me. Balbettavo tanto e con loro mi chiudevo. Con il frequentare le superiori ho perso questo problema. Ora però sono troppo schietto e diretto e quindi è passato da una parte all'altra, ma sicuramente i timidi, quelli che riescono a trasformare la loro timidezza in una tendina, come diceva il dottor Aquila, secondo me hanno poi alla fine una marcia in più perché sanno ascoltare. Ma chiedo al prossimo ospite, il professor Alessandro Padovani. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Come sta? Benissimo, grazie. Timido o non timido? Si presenti. Sì, timido evoluto, chiamiamolo così, o timido estroverso potrebbe anche essere detto. Il professor Padovani, ordinario di neurologia clinica all'Università di Brescia. Professor Padovani, una domanda che sembra banale, ma insomma mi viene da fargliela, anche perché la leggiamo tutte le volte che si parla di timidezza, ci si chiede, ma si nasce timidi o si diventa timidi? Ma qui la risposta è molto complessa. Vi sono molti dati che tenderebbero a favorire l'ipotesi che la timidezza sia un tratto di personalità in qualche modo geneticamente determinato. Ci sono anche degli studi condotti da italiani del San Raffaele, cito Battaglia, tanto sì, per fare il nome di uno che ha lavorato su questo, il quale identifica alcuni geni o un gene in particolar modo che è il gene che in qualche modo ha a che fare con la serotonina, che è un trasmettitore cerebrale noto anche per essere coinvolto nella depressione e in altre alterazioni. Così come vi sono alcuni dati che dicono che si è più timidi in famiglie timide, è più facile essere bambini timidi quando i nonni sono stati timidi, quindi ci sono alcune evidenze. La sensazione è che, così come per tante altre questioni comportamentali, vi sia, piuttosto che un determinismo così, una relazione così stretta, vi sia un gioco tra ambiente e geni. Che si condizionano, poi, certo. Certo, sì. Senta, ma gli studi vanno avanti, ma soprattutto perché quando si parla di timidezza, quello che ai ricercatori interessa è una timidezza patologica. Esattamente. Di cui oggi non ci occupiamo, ma certamente con i nostri esperti cercheremo di sottolineare quali sono gli aspetti da tenere sotto controllo della nostra timidezza. Ma le ricerche si orientano su questo tipo di timidezza, vero professore? Molti degli studi cosiddetti, chiamiamoli neurobiologici, o che mirano a trovare delle cause organiche a tratti di personalità, sono condotti poi in realtà su popolazioni di persone che hanno patologie, quindi in particolar modo persone che sono affette da fobia sociale, ecco, questo è un tratto. Faccio solamente un punto: Einstein era un grande timido, ma era Einstein, quindi vorrei dire sì, che insomma noi sento che anche gli altri ospiti sono dei timidi evoluti in qualche maniera, cioè la timidezza è una qualità secondo me da sottolineare, non da in qualche modo giudicare negativamente, perché permette grandissime operazioni. Però è vero che tutto ciò che porta a identificare le cause organiche di tratti di personalità o tratti morbosi viene fatto utilizzando forzatamente persone che hanno delle patologie e poi cercando di inferire da questo, derivare da questo un costrutto utilizzabile per tutto. È vero che ogni tratto di personalità dipende dalla struttura entro cui questa si matura, quindi il cervello, però da qui è dire che anche nei timidi vi siano complesse alterazioni biochimiche, no, questa e no, di circuiti, insomma è un po' con forte. Tutte quelle parole difficili, questo non lo vogliamo dire, no, e non è da dire. Professor Padovani, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi e saluti agli ospiti. Buona giornata. Ciao Nicoletta, io e il mio fidanzato siamo tutti e due timidi. Quando ci incontravamo le prime volte diventavamo tutte e due rossi come peperoni ed era bellissimo. Davide ci scrive invece da Verona: io da timido mi sono trasformato nell'esatto opposto, grazie alla lavoro mi preferisco adesso. E andiamo a Roberto che ci chiama da Lecco. Buongiorno Roberto, benvenuto. Buongiorno, ecco, niente, io sono timido fin dalla nascita, diciamo. Sì, niente, proprio già nella culla, sua mamma le diceva che arrossiva quando sorrideva? Sì, sì, ero sorpreso da mia madre, niente, ho avuto, diciamo, non problemi, comunque, se diciamo in casa, come dice mio padre, spacco il mondo. Sì. Poi quando esco c'è la realtà diversa. Ecco. Ecco, niente, quando mi trovo, cioè, la timidezza, diciamo, arriva quando devo, magari sono da solo, sono con persone che non conosco. Insomma, come si dice, rompere il ghiaccio. Dottor Grimaldi, vogliamo dare, questo è un classico, no? Tutti noi avvertiamo un po' di tremarello, un po' di imbarazzo quando dobbiamo affrontare, come ci scriveva Roberto, come ci diceva Roberto, delle persone che non conosciamo. Lei nel suo libro dà anche tantissimi consigli pratici. Un consiglio pratico al volo prima di andare ai mercati. Allora, innanzitutto bisogna sapere accettare anche gli insuccessi, non essere troppo autocritici con se stessi, accettare il rischio di sbagliare, aspirare comunque ad degli obiettivi e dei traguardi che siano abbastanza realistici. Io credo che sia questa innanzitutto la cosa che bisogna tener conto. Dottor Aquilar, io ho una mia ricetta personale che volevo condividere con lei. Io penso che la persona timida, quando incontra persone che magari possono metterle in imbarazzo, potrebbe sfoderare un bel sorriso. Un sorriso, devo dire, che è un lubrificante dei rapporti interpersonali e sicuramente inizia a sciogliere un pochino il ghiaccio. Che ne dice, dottor Aquilar? Possiamo dare questo consiglio? Va benissimo, certamente, anche se bisogna stare attenti a non trasformare il sorriso in un ghignare di denti, perché a volte la realizzazione è diversa dall'intenzione. Certo, bene, deve essere un bel sorriso. Fare un sorriso, se quella persona, almeno dobbiamo concentrarci su una cosa di quella persona che ci piace. Ecco, dobbiamo. E allora facciamo un sorriso a quel particolare aspetto di quella persona. Ecco, questa è la prima indicazione. Siete timidi? Chiamateci 824 0024. La trasmissione di oggi è dedicata a voi e quindi a noi, perché anch'io lo sono. In linea con noi abbiamo il dottor Pietro Grimaldi, il dottor Francesco Aquilar e Gianfranco da Roma. Buongiorno Gianfranco, benvenuto. Buongiorno a te, complimenti per la trasmissione. Grazie Gianfranco, raccontaci. Che devo dire, per essere timido lo sono stato e lo sono tuttora, solo che grazie a, diciamo, io lo chiamo padre spirituale perché poi mi è stato da guida e mi ha insegnato a combattere questa timidezza. Cosa ti ha aiutato Gianfranco? Prima di tutto il problema mio, che poi alla fine mi rendeva questa timidezza, era il fatto che io mi mettevo sempre in competizione con tutti, quindi poi alla fine vedevo che avevo paura sempre di sfigurare confronto agli altri, perché poi alla fine io mi metto sempre il paragone degli altri. Certo. Alla fine ho imparato anche a dire sì, anche se loro sono più bravi di me, anche io posso fare la mia parte se io poi so le cose. Infatti il dottor Grimaldi diceva bisogna anche essere pronti ad accettare una sconfitta. Quindi Gianfranco, tu hai lavorato in questa direzione. Sì, perché io poi sono molto competitivo. Molto? Sì, perché sono una rete ascendente sagittario. Ma dottor Grimaldi, mi scusi, Gianfranco mi suggerisce una domanda. Dentro un timido si nasconde una persona competitiva? Assolutamente sì, sono persone che hanno vissuto in ambienti dove sono stati, tra virgolette, un po' allenati alla competizione. Il problema grosso è che i timidi non pensano di non avere le risorse adeguate per competere con gli altri, cioè si sentono sconfitti in partenza. Quali altri tratti hanno i timidi che possono in qualche modo aiutarci a individuarli bene? Ma guardi, innanzitutto sono persone che hanno paura molto di ricevere giudizi o valutazioni negative, di non fare una buona impressione sugli altri. Diciamo, questo le espone un po' al timore di essere rifiutati, di essere esclusi o non accettati. Quindi la paura più grande è proprio questa. Infatti Gianfranco ci ha detto, quando ho imparato a non essere così competitivo, ho accettato i miei eventuali insuccessi, in qualche modo ho svoltato. Gianfranco, che lavoro fai? Io sono cassiere a un supermercato. Ah, e quindi sei a contatto quotidiano con la gente. Infatti poi alla fine tutti si rivolgono da me perché ho imparato alcune regole fondamentali. Ad esempio? Allora, imparare a usare i tempi giusti. Perché se le cose si fanno facili nel tempo coi tempi giusti, con la persona giusta, nel luogo giusto, nel momento giusto, allora le cose vengono fatte bene. Quindi è una questione anche di ritmo, Gianfranco. Più di capire le sensazioni, cioè se è il momento giusto per... E qui sicuramente tu che hai superato la tua timidezza hai, come dicevamo anche col dottor Aquilar, quella marcia in più che ti permette di arrivare dritto alla persona che hai davanti. Gianfranco, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te, auguri e complimenti per la trasmissione ancora. Grazie. Arrivederci. Allora vi ripropongo le tre domande. Quando vi assale la timidezza, quali situazioni o persone vi mettono in crisi? Che faccia ha la vostra timidezza? Vampate, sudate, vi viene la tremarella, vi manca la parola? E a ultima domanda, che cosa fate? Subite o reagite? E io giro tutte queste domande a un'amica, Silvia Mezzanotte, cantante e attrice, devo anche aggiungere. Buongiorno. Silvia, che bello averti. Grazie. Beh, prima di tutto attrice no, nel senso che faccio spettacoli in teatro, ma canto. Canti, se recito, sì. Recito me stessa, nel senso che racconto della mia esistenza e racconto anche della mia timidezza in realtà, perché il mio percorso diciamo musicale mi ha comunque sempre permesso di combatterla. Vincerla per me è impossibile, ci si può convivere, si scende a patti, perché per me timidezza significa soprattutto autocritica e paura del giudizio degli altri, ma d'altro canto ho scelto un mestiere che mi espone continuamente a questo e quindi hai dovuto lavorare parecchio, Silvia. Assolutamente. Io vorrei tirare anche in dentro alla nostra chiacchierata i nostri due esperti, il dottor Pietro Grimaldi e il dottor Aquilar, che sono sicura saranno lieti di avere, no, una chiacchiera con una timida come Silvia. Dottor Aquilar. Beh, può darsi che la timidezza di Silvia Mezzanotte diminuisca quando ha un microfono in mano. È esattamente così. Possono esserci infatti delle operazioni di sicurezza che le persone possono fare e che variano da persona a persona e che in qualche modo li tranquillizzino. Quindi è come se prendendo il microfono in mano la timidezza sparisce. E tra l'altro c'è anche dietro alcune forme di timidezza un eccesso di importanza attribuita all'opinione dell'altro e contemporaneamente un eccesso di competizione, come diceva l'ascoltatore di prima. Quindi differenziando tra dove il giudizio dell'altro non è così determinante e aumentando le capacità di cooperazione, la timidezza viene gestita abbastanza bene da tutti. In più, con un'operazione di sicurezza come il microfono, ci si trasforma in una tigre del palcoscenico. Certo, certo. Silvia, è andata così? Beh, è andata così, in realtà ormai ho imparato a gestire la timidezza anche scendendo dal palco, però è vero che ho questa sindrome da tartaruga che tante volte mi hanno attribuito, cioè sul palco tiro fuori la testa e le braccia, appena scendo le rimetto al loro posto e sono comunque, cioè, questa cosa è una cosa anche che mi piace perché mi permette di integra la mia normalità. E devo dire che, questa sindrome di tartaruga, per chi ti segue, è molto piacevole, produce ottimi effetti. Dottor Grimaldi, lei della sindrome tartaruga non ne parla nel suo libro, come mai? Deve scriverne un altro pezzettino, perché è bellissima questa della sindrome tartaruga, che tiri fuori la testa e le zampette e poi ti rintani. Che ne pensa? Sì, sicuramente. Vabbè, stiamo parlando, è chiaro che è una forma di timidezza situazionale in cui, ecco, ci può essere una situazione specifica che dà timidezza e in altri contesti invece non si prova. Quella che sta, di cui sta parlando la Mezzogiorno in questo momento, è quella che possiamo definire una timidezza di successo, e cioè ha imparato abbastanza bene a convivere con la sua timidezza, ha sviluppato delle strategie che l'aiutano un po' a superare quei momenti di difficoltà e quindi non hanno dei sentimenti riprovevoli rispetto alla propria timidezza, non la condannano, anzi diciamo che ecco, la usano in determinate circostanze a seconda dei casi. Silvia, tu che c'è... Sì, mi dica, no, scusi, dottor Grimaldi. Un'altra cosa importante era il fatto che poi avere contatto col pubblico, con le persone, questo ci dà la possibilità anche di scoprire che gli altri sono delle persone dotate di una umanità, non sono giudicanti, non sono critici così come ci aspettiamo, perché poi la timidezza si fonda sull'aspettativa dell'altro che sia critico, giudicante, ma quando ci rendiamo invece conto, a contatto delle persone che non sono così, ma possono essere anche, come diceva Aquila, cooperativi, benevolenti, questo cambia un po' la nostra idea. Io vorrei che voi aiutaste un ascoltatore che ci scrive, è Peppe. Ciascuno di voi un consiglio rapido. Faccio fatica a parlare davanti a tante persone, non riesco mai ad intervenire. Cosa posso fare? Un consiglio da Silvia, un consiglio dal dottor Aquila e uno da Grimaldi. Silvia. Ah, dunque, ci sono degli esercizi di respirazione che permettono un certo tipo di rilassamento e soprattutto intervengono anche sul piano fisico a proposito del diaframma, che è un muscolo che noi utilizziamo molto, anche tu ovviamente, perché parlare tanto alla radio, certo, ti deve fare utilizzare al meglio la respirazione. Io, ecco, parto anche dalla respirazione, che è, prima che mentale, un problema fisico, cioè nel momento in cui riusciamo ad avere un po' più di rilassatezza nel respiro, a prendere maggiore aria, riusciamo a rivolgerci al resto del mondo in maniera più rilassata, in automatico. Questa è la mia prima tecnica, è proprio una tecnica fisica di respiro, di respiro e di rilassamento. Questa è la parola magica di Silvia Mezzanotte, respirare. Dottor Aquila, riaggiungo una seconda. Io direi recitare. Recitare. Nel senso, sì, recitare la parte di una persona sicura di sé, accettando l'eventuale rischio di sembrare goffi, ma normalmente il timido, se recita, è tranquillo. Ma mi piace questa, dottor Aquilar, parleremo proprio con un'attrice di teatro tra poco, dopo le informazioni sul traffico, e sicuramente questa è un'ottima idea. Provate a recitare. Dottor Grimaldi, ci dia un compitino anche a lei, veloce, prima delle strade. Velocissimo, evitare di focalizzare l'attenzione su se stessi, ma invece focalizzare l'attenzione su quello che si sta facendo, sul compito. Io sto parlando in pubblico, allora mi preoccupo, mi focalizzo solo su quello che devo dire, che cosa sto dicendo, su quella, sulla cosa, la performance di quel momento. Quindi stacco l'attenzione su come posso io apparire agli altri. Silvia, io rompo ogni indugio e adesso ti dico, noi ieri abbiamo lanciato un'iniziativa. Sì. Ne so qualcosa, ho anche avuto modo di ascoltare le vostre cose meravigliose. Magnifico, allora vedi, non sono più timida. Dei medici cantanti. Sì. Dei medici cantanti. Allora, sì. Dopo i mercati, che non sono i mercati, scusate se è la strada, e vabbè, si sbaglia, no? Anche i timidi sbagliano. Dopo le strade, io vorrei chiedere a te se ci dai un giudizio sui nostri medici cantanti, che senza timidezza, è il caso di dirlo, sono proprio scesi in campo per cantare la prevenzione. Grazie allora a Silvia Mezzanotte. Allora Silvia, sei pronta? Prontissima. Ti faccio ascoltare la prima canzone, H1N1, è quella che è fatta da Andrea Vitali insieme ai Salute Umana. Andiamo. H1N1, con l'aereo e con il treno, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. H1N1, non spaventa più nessuno, se dai retta ai miei consigli, l'influenza non la pigli. Seconda si chiama No Panic ed è scritta da Oreste Gentilini e Flavio Mazzoni, in arte gli Autobang. Alle maestre, aprite spesso le finestre. Con buon senso, educazione, ne ridurremo la diffusione. Davanti al naso e il fazzoletto, le mani sotto il rubinetto. E passiamo alla terza, Alberto Pellà insieme a Giovanni Paolo Fontana e De Luca hanno scritto e composto Un pugno al virus. La mia scuola resta senza l'antipatica influenza ed un pugno al virus do. grazie a quello che io so. Se le mani lavo spesso, questo virus faccio fesso. Acqua calda con sapone sono la giusta prevenzione. Silvia, sì. Che idea ti sei fatta dei nostri medici cantanti? Beh, che intanto mi piacerebbe molto farmi curare da queste persone perché hanno la voglia e la volontà di mettersi in gioco e in discussione, ed è una cosa che mi piace molto, e riescono a divertire comunicando ovviamente cose particolarmente importanti. Personalmente trovo la cosa più originale la seconda, un po' techno pop rock, quella di Gentilini, ecco, se dovessi votare voterei per questa cosa perché l'ho trovata originale, sì, ma sono tutte e tre originali, l'ultima particolarmente pop, la seconda è quella che mi ha colpito di più. Tra l'altro complimenti comunque, ma sono stati bravi e tra l'altro bravi. Noi Silvia, tra l'altro, invitiamo ancora tutti i medici all'ascolto a sentirci, anche i musicisti amatoriali, ad allearsi con dei medici per scrivere queste canzoni, perché noi vogliamo fare prevenzione cantando in una radio che è tutta parlata, e quindi possono inviarci i loro testi e noi li metteremo sul sito, poi li faremo ascoltare, avremo personaggi famosi come Silvia Mezzanotte, colleghi che li commenteranno, insomma cerchiamo di togliere il timore dell'influenza da virus A e di trasformarlo in un'operazione di prevenzione attiva. Intanto Silvia, io ti ringrazio davvero, spero che tu tornerai magari come testimonial di una new entry. Me lo auguro. Grazie mille e viva i timidi, se sono evviva, come te. Evviva, sì, grazie. Grazie a te, a risentirci, a presto. Andiamo a Sante che ci chiama da Frosinone, buongiorno Sante. Buongiorno a voi, intanto un complimento velocissimo a tutta Radio 24, siete fantastici. Oh, grazie. Vorrei Sante. Da voi cortesemente una spiegazione e un consiglio, se è possibile. Non parlo per me, io dopo le vostre spiegazioni ritengo che sono un timido evoluto, cioè un estroverso, però molto timido in determinate situazioni. Sto parlando per i miei figli, grandicelli ma sempre agli occhi miei, sempre piccolini, uno 19 e uno 17. Quello di 19 timidissimo, si è evoluto, adesso c'ha il... adesso è diventato estraverso, si apre. Il piccolino, cosa che non riesco proprio a capire, nell'ambiente familiare, nell'ambiente scolastico è un leader, cioè anche io quando vado a scuola e dico, ho cercato di spiegare a mio figlio, ho fatto, ma è sicuro che sta parlando di suo figlio? Perché Sante, venga la domanda che così la possono dare un consiglio. Come mai dopo si trasforma, cioè fuori, siamo in macchina insieme, non riesce, si fa tanti problemi a chiedere un'informazione dal finestrino della macchina, oppure siamo al ristorante, quindi si vergogna a chiedere al cameriere qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, c'è questa timidezza, dottor Aquilar. Ma questa io sto quasi cuocendo la pasta perché ho in linea il prossimo esperto, che ormai l'ho fatta venire e già da ieri che la sto rimandando. Può dare un consiglio veloce? Certo, perché c'è un timore di un rifiuto. Sostanzialmente bisognerebbe aiutare questo bambino a tollerare l'idea che qualcuno gli risponda male alla sua richiesta di informazione. Ecco, un po' di palestra delle emozioni, ma noi torneremo a parlare di emozioni. Intanto ringrazio il dottor Pietro Grimaldi e il dottor Aquilar per essere stati con noi. Se volete scriverci, chiamarci, avere delle indicazioni in più, essere benessere @radio24.it. Grazie ai miei esperti, buona giornata. Grazie anche a voi, buona giornata. Bene, adesso rimanete con noi perché vi voglio portare in cucina a preparare un bel piatto di pasta. È un piatto che mette sicuramente allegria e in qualche modo anche scioglie la timidezza. In linea con noi abbiamo Romana Bosco, maestra di cucina e titolare della scuola di cucina Il Melograno di Torino. Signora Bosco, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei Micoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito e complimenti per la trasmissione. Signora Bosco, direi che è bene iniziare subito con la cottura. Cuocere la pasta al dente, sembra semplice ma presenta anche delle piccole difficoltà. Ad esempio, deve essere messa la giusta quantità di acqua, la giusta quantità di sale. Ci aiuti lei? Sì. per la cottura della pasta è importante che ci sia un'abbondanza di acqua, quindi in genere 1 litro d'acqua per 100 grammi di pasta. Poi aumentando la dose della pasta si può anche diminuire la quantità di acqua. Il sale è tra gli 8 e 10 grammi, la pasta va calata nell'acqua in piena ebollizione, si può mettere il coperchio perché riprenda rapidamente l'ebollizione, poi però va tolto per mantenere costantemente la temperatura dei 100 gradi. La pasta deve essere scolata molto rapidamente, naturalmente al dente. Il dente è molto soggettivo, in genere il tempo di cottura è scritto sulle confezioni, ma solo con l'assaggio avete la certezza. Quindi se è previsto nel condimento del parmigiano è una buona regola condire immediatamente la pasta calda con 1 o 2 cucchiai di parmigiano, rimescolare e così il formaggio si scioglie a contatto della pasta calda, crea una rugosità e il sugo viene trattenuto meglio dalla pasta stessa. Signora Bosco, adesso che abbiamo imparato a cuocerla alla perfezione, direi che potrebbe aiutarci con una ricettina. Magari c'è qualche nostro ascoltatore che è indeciso ancora sulla pasta da portare in tavola e magari fa ancora in tempo a seguire la sua ricetta. Faremo delle conchiglie che abbiamo chiamato in verde. Abbiamo bisogno di 2 broccoletti, uno dei quali verrà lessato in acqua molto ben salata per mantenere il colore. Quando è morbido privilegiamo l'infiorescenza, quindi il torso lo eliminiamo e ne possiamo poi fare una minestra, mentre invece il broccoletto va frullato con un po' di brodo, un po' di olio, un cucchiaio di parmigiano e versate questa salsa nella terrina dove poi servirete la pasta. Il secondo broccoletto viene invece diviso a cimette e queste cimette vengono aggiunte alla pasta 4-5 minuti prima della fine della cottura. Scolate tutto insieme, pasta e broccoletti. Come abbiamo detto prima, versate questa pasta e broccoletti nella terrina, la spolverizzate con il parmigiano, muovete leggermente un filo d'olio e portate in tavola. Davanti ai vostri commensali rimescolate la pasta con il condimento sottostante. Una generosa macinata di pepe nero e buon appetito. Grazie a lei, signora Bosco, per essere stata con noi. Appuntamento ancora domani per un'altra ricettina che, come sempre, potete trovare sul nostro sito, sull'home page di Essere Benessere. Per oggi è tutto, io vi aspetto domani. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e Benessere.